già è giunto al suo finire, e le piante ora spoglie noi vedremo rifiorire. Chissà, chissà se rischia d'arder il cielo, rinnovar come foglie i pensieri potrà. È primavera, lasciate entrare il sole, ci sono tanti cuori pieni di gel da riscaldare, c'è da ritrovar parole che tornino a portare il sereno di un po' di te. Quei che sognano, lasciatevi sognare, potran dimenticare così tristi lì. Di felicità, l'illusione ognuno vuole. È primavera, lasciate entrare il sole. Ci sono tanti cuori pieni di gel da riscaldare. Lasciatevi sognare, potran dimenticare così tristi di felicità, l'illusione ognuno può. È primavera, lasciate entrare il sole. Dimenticare tutto voi, tornate primavera, lasciate entrare.